Cominciamo questa giornata e questa conferenza. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati in questa che è la terza conferenza del ciclo di incontri, di un mini ciclo di incontri che abbiamo messo in piedi in vista del giorno del ricordo del 2024, che noi chiamiamo il ventennale perché comunque è stato istituito, penso, a marzo del 2004. E quest'anno ricordo 20 anni dall'istituzione nefasta del giorno del ricordo. Ringrazio Alessandra Kersevan, Piero Purice e Davide Conti per essere qui con noi a presenziare a questa conferenza. Ringrazio di nuovo voi per essere qua. Noi come spazi sociali è da più o meno da sempre, più o meno da 20 anni che lavoriamo sulla data del ricordo per contrastare sia i fascisti che scendono in piazza in questa data, sia la narrazione politica, sociale che viene data a questa data, che è completamente negativa, una data piena di bugie, piena di racconti falsi, piena di invenzioni, di omissioni, che tende a una riscrittura generale della storia. Abbiamo fatto sempre presidi e manifestazioni, negli ultimi anni abbiamo cominciato a studiare molto di più i fatti, a studiare molto di più le dinamiche politiche che hanno portato ai fatti dell'Alto Adriatico, e questo è uno di quegli incontri che ci servono per ampliare sempre di più il nostro bagaglio politico e culturale sull'argomento. Negli ultimi anni avevamo fatto determinati passi avanti rispetto alla questione del giorno del ricordo, quindi la provincia di Reggio Emilia era stata interessata e attraversata da importantissimi storici che comunque raccontano una storia diversa rispetto alla narrazione istituzionale, rispetto alla data del giorno del ricordo e ai fatti accaduti nel confine orientale. Quest'anno in città arriverà Raul Pupo, che invece racconta in maniera diversa i fatti, e probabilmente ancora non sappiamo bene dato orario, sarà il 10 febbraio, e invito comunque tutti, poi magari a fine incontro ci torneremo un po' sopra, a partecipare per ascoltare e intervenire anche in quella data, perché è importante comunque anche intervenire in date come queste, in conferenze, no? Come quella che terrà al Pupo. Quest'anno il ciclo di incontri l'abbiamo chiamato "I tempi non sono maturi". I tempi non sono maturi è un titolo molto particolare perché la risposta che le istituzioni italiane hanno dato alle organizzazioni partigiane slovene, croate e italiane per l'ottantesimo, per la richiesta che è stata fatta di presenziare all'ottantesimo anniversario della liberazione del campo di Raul. E dalle istituzioni italiane, praticamente dal Quirinale, è arrivata la frase "non verremo perché i tempi non sono maturi". Da notare che le istituzioni croate e slovene hanno sempre partecipato a queste commemorazioni e che in 80 anni nessun rappresentante dello Stato italiano è mai stato in visita ad Arbe. Arbe, brevemente, è uno dei campi di concentramento italiani sul suolo croato, sull'isola di Rab, che si rese necessario costruire, visto l'alto numero di rastrellamenti e di rastrellati che venivano fatti, sono stati fatti in un'operazione nel 1942, quindi c'erano troppe persone, non si sapeva più dove mettere, quindi in 448 venne allestito questo campo, che dagli internati veniva chiamato Campo della Morte e che in pochissimi mesi ha visto morire migliaia, 3-4 mila persone nei primi mesi di vita di quel campo. Quindi è un campo molto duro, organizzato male, molto duro, in cui quello che lo comandava, un tenente dei carabinieri, si diceva abbastanza sadico. C'è un bel libro sulla brigata Rapska che racconta questo. La particolarità del campo è che all'interno di quel campo nacque clandestinamente un'organizzazione partigiana, no? Che poi riuscì a liberare il campo subito dopo l'8 settembre del 43, un campo che durò 14 mesi circa. Dopo l'8 settembre del 43 riuscì a liberare il campo e divenne una brigata dell'esercito popolare, poi ebbe le sue vicissitudini che potete trovare nel bellissimo libro. Quindi i tempi non sono maturi, vogliono dire questo: lo Stato italiano non è ancora maturo per fare i conti con la propria storia, e siccome nei nei cicli precedenti noi siamo sempre andati a studiare, a capire cosa era successo, no? In quegli anni nel confine Alto Adriatico. Quest'anno abbiamo voluto cominciare ad andare a cercare come lo Stato italiano ha non solo agito in quel momento, ma come ha reagito dopo la fine della guerra, perché comunque noi siamo, noi nel senso sinistra, comunisti, siamo sempre stati, veniamo sempre attaccati sul fatto che da parte nostra c'è stato un silenzio assordante sulle foibe, mentre invece noi vogliamo capire e dimostrare da che parte vengono realmente questi silenzi, chi realmente ha taciuto, cosa è successo, chi realmente non ha mai parlato di ciò che è successo e chi realmente non ha mai fatto i conti con la propria storia. E i tempi non sono maturi di quest'anno del Quirinale a questa associazione partigiane nella commemorazione del campo di Iraq dicono tantissimo rispetto a quello che lo Stato italiano ha fatto o non ha fatto rispetto alla propria storia, alle proprie scelte politiche e a tutto ciò che è successo, no? Nell'Alto Adriatico, che molti chiamano confine orientale, ma che giustamente i compagni ci spiegano che chiamano l'Alto Adriatico è molto più, più azzeccato come, come termine, perché confine orientale riguarda solo noi, quindi esclude praticamente già l'altra parte, no? Dal nostro discorso, dalla nostra discussione, dal nostro pensiero praticamente. La conferenza di oggi infatti l'abbiamo chiamata Foibe, scelte politiche e responsabilità dello Stato dal dopoguerra ad oggi, e come detto va a concludere questa tre giorni che ci vedrà in piazza il 10 febbraio come ogni anno, e come detto prima ci vedrà anche partecipare alla conferenza e intervenire anche alla conferenza grazie anche a tutto il portato di studio che abbiamo avuto in questi anni. Vi ringrazio ancora per essere qua, ringrazio ancora i relatori, passo la parola a Stefano che comincia a introdurre il primo relatore. Allora, buonasera, grazie a tutte e tutti. Aspetta, facciamo passare un attimo il treno. Allora, una conferenza con tre relatori può essere un'arma a doppio taglio. Se non ci si dà un ordine delle domande precise, si può rischiare l'effetto eco della caverna, cioè appunto ripetersi continuamente. Quindi automaticamente andremo ad affrontare con ogni relatore un aspetto specifico di quello che sono le foibe e la mitologia che è legata intorno alla data del giorno del ricordo e del revisionismo storico. Con Alessandra Kerseval, che storica, scrittrice, giornalista e anche editrice di edizioni KV, poi dopo tutto il materiale lo potete comprare qui al banchetto all'angolo da Olivia e Robby. Affronteremo le colpe e tutto l'aspetto politico che poi ha portato a sedimentare il giorno del ricordo nella memoria storica collettiva italiana. Invece con Pero Puric autore del grandissimo libro Metamorfosi etniche e tanti altri scritti, affronteremo tutto l'aspetto legato alla locuzione pulizia etnica e di come questo diciamo come questa locuzione viene usata in maniera inappropriata. Approfondiremo, andremo ancora più avanti con Davide Conti, altro storico che abbiamo invitato l'anno scorso proprio per parlare della pulizia etnica dei Balcani e dell'invasione dei Balcani del 41 da parte dell'Italia. Anche di Davide ci sono i libri sul banchetto. Parleremo di come la memoria vittimaria presta più il fianco al revisionismo storico che a una memoria collettiva. Noi abbiamo scritto le domande perché il nostro è sempre un lavoro collettivo, quello degli spazi, proprio perché, come diceva un grande intellettuale, Homer Simpson, non sono un buon oratorio. Quindi, cioè, appunto, la prima domanda, partiamo proprio con Alessandra, riguarda l'aspetto politico e l'aspetto istituzionale. Ecco, con l'istituzione del giorno del ricordo abbiamo assistito non ad uno squarcio del velo dell'oblio, non un tentativo di andare a recuperare il rimosso e vedere cosa era, bensì a una nuova storia da inserire al posto dell'altra, sopra l'altra, posata nello spazio lasciato libero dalla rimozione estesa sul velo dell'oblio. Una storia costruita sulla base di un sentimento nazionalista, vittimista e becero, piena di distorsioni, di malafede, di calcoli politici, povera di storiografia. Un racconto diffuso dai media con prodotti di scarsa qualità e scarsa conoscenza, tutto teso a costruire una mitologia nazionalista rinfrancando gli italiani nel loro ruolo di vittime. E qua arriviamo alle domande. Come nasce questa narrazione? In che arco di tempo si sviluppa? Quali sono le complicità politiche di questa cosmesi storica? E quali sono gli anticorpi per resistere e non compromettere completamente la memoria storica? Grazie. Bon, grazie a Stefano e grazie a voi, insomma, che organizzate ogni anno questo tipo di manifestazioni, anche il pubblico foltissimo che evidentemente dimostra che è un argomento che è molto sentito. La prima cosa che vorrei dire per rispondere è una riflessione su questa parola che hai usato più volte, oblio. In realtà noi che veniamo, io e Piero Puris, veniamo dal Friuli Venezia Giulia, io posso dire che nel corso della mia vita non ho fatto altro che sentir parlare di Foibe e Porzus. Quindi l'oblio era forse per il resto d'Italia, allora bisognerebbe chiedersi, ma il Tagliamento, il fiume che attraversa il Friuli, è un muro di Berlino? Come mai dal Friuli non si è diffuso nel resto d'Italia la conoscenza delle foibe? Evidentemente c'è qualche motivo. Per rispondere però che spiegherò fra un momento, per rispondere alla prima domanda, cioè quando è nata questa vicenda mass mediatica delle foibe, si potrebbe dire che è nata nel 1943. Sono stati i tedeschi, quando hanno conquistato l'Istria intorno ai primi giorni dell'ottobre del 43, pensare di sfruttare l'argomento delle foibe per poter dividere la resistenza di quel territorio molto importante. Non si sente? Così proprio attaccato. La resistenza di quel territorio, mettendo che era una resistenza multinazionale formata da sloveni, croati, italiani, quindi mettere gli uni contro gli altri, il solito discorso del dividere per continuare a poter comandare di romana antica memoria, no? E quindi bisogna fare un passo indietro e dire velocemente cos'era successo in Istria nei giorni precedenti. Dopo l'8 di settembre si ha la capitolazione dell'esercito italiano e in Istria, mentre l'esercito tedesco conquista nei giorni immediatamente successivi tutta l'Italia che non era ancora stata liberata dagli alleati, quindi l'Italia centro-settentrionale, e quindi i giorni immediatamente dopo l'8 di settembre l'Italia è occupata dai tedeschi. Invece l'Istria, che era parte del Regno d'Italia prima ancora della Seconda Guerra Mondiale, resiste, si forma una insurrezione popolare e si formano quelli che vengono chiamati poteri popolari, quindi una resistenza ai nazisti che riusciranno a conquistare l'Istria appena 20 giorni dopo, cioè quindi intorno al 5, 6, 7 di ottobre. In questi 20 giorni o quasi un mese di poteri popolari, cosa succede? Che quelli che erano stati fascisti vengono arrestati, fascisti da intendere in maniera diciamo, non soltanto quelli che erano le camicie nere o che erano stati il federale dell'Istria o gli esponenti più in vista, ma il fascismo in Istria era rappresentato dai maestri, dai medici, dai segretari comunali, dai podestà, cioè da tutto quello che era l'apparato statale in Istria, anche nel resto d'Italia, ma in Istria particolarmente era fascista. Perché? Perché essendo una terra multinazionale, il fascismo aveva ritenuto queste terre sempre poco fedeli, nonostante venissero definite italianissime, no? In realtà italianissime non era, più del 50% della popolazione era costituita da sloveni e croati, e quindi durante il periodo fascista si era provveduto a italianizzare violentemente il territorio in vari modi, anche facendo arrivare decine di migliaia di italiani a colonizzare praticamente l'Istria, e tutto l'apparato statale era costituito da fascisti fatti e finiti, provenienti anche da altre parti d'Italia. Quindi quando c'è questa insurrezione popolare vengono arrestate parecchie centinaia di persone e vengono rinchiuse in carceri, che potevano essere i carceri già precedenti, oppure in vecchie scuole trasformate per l'occasione. Delle violenze, come usa il termine che usa il professor Raul Pupo, come se non fossimo nel mezzo della più grande operazione di violenza che c'è stata forse nella storia italiana, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono delle uccisioni di fascisti o di altre persone che venivano considerati delatori, spioni o robe di questo genere subito, ma la gran parte di queste persone vengono rinchiuse appunto nelle carceri. Nel frattempo però i tedeschi devono conquistare anche questo territorio, e quindi il 28 di settembre del 43, quindi qualche giorno dopo l'8 di settembre, Pisino, che era la capitale al centro dell'Istria, una piccola cittadina, la capitale di questi poteri popolari, viene bombardata dalla Luftwaffe e inizia quella che viene chiamata, che i tedeschi chiamarono, l'operazione Nubifragio, tanto per, cioè che già il nome descrive bene di cosa si trattò. Praticamente iniziarono a fare tabula rasa in Istria, incendiando i villaggi, ammazzando tutti quelli che incontravano, uccidendo partigiani, civili, eccetera. Alla fine di questa operazione Wolkenbruch, Nubifragio, i tedeschi si vantarono di aver fatto fuori almeno 10.000 istriani, di cui 3.000 uccisi e altre migliaia deportati nei campi di concentramento da cui non sarebbero ritornati. Ecco, questo è quello che succede, e questa operazione finisce con la liberazione da parte dei tedeschi, anzi l'occupazione dell'Istria da parte dei tedeschi verso il 7-8 di ottobre. Quindi in questi 10 giorni, fra il 28 di settembre e il 8-9 ottobre, avviene questa operazione enorme, e sono proprio i giorni in cui avviene anche la vicenda delle foibe istriane. Cosa succede? Che gli insorti devono ritirarsi in territori più protetti, diciamo più all'interno della Slovenia e della Croazia, e portano con sé questi prigionieri di cui vi parlavo prima, e molti di questi prigionieri vengono uccisi nel corso di questo ripiegamento e gettati nelle foibe come tomba, diciamo come sepoltura provvisoria. I numeri di queste morti sono alcune centinaia, quindi molto lontani dalle cifre che vengono dette, migliaia, decine di migliaia, addirittura centinaia di migliaia in qualche caso, e i tedeschi però approfittarono subito di questi fatti per fare il recupero delle foibe, e già nell'autunno del 43 provvidero appunto tramite i vigili del fuoco di Pola a fare i recuperi di corpi dalle foibe. Alla fine recuperarono poco più di 200 corpi e iniziarono subito la propaganda sulla ferocia slava, la ferocia comunista, eccetera. Ecco, quello che si è cominciato a dire dagli anni 90 in poi e che si dice dopo l'istituzione del giorno del ricordo è esattamente la propaganda che era stata fatta già dai tedeschi nel 43. E questo lo si capisce anche in maniera logica, perché se fosse vero che in Italia non si era mai parlato di foibe prima, allora se si voleva istituire il giorno del ricordo si doveva dire: non ne sappiamo niente, cominciamo a studiare, facciamo le ricerche, vediamo cosa è successo veramente. Invece improvvisamente tutti sapevano già tutto. I giornali si riempirono subito di narrazioni, di racconti sulle foibe, che erano esattamente quelli che i nazisti avevano, i fascisti, perché era stato il servizio segreto che faceva riferimento alla decima MAS a aver messo in piedi tutta questa narrazione sulle foibe. E quindi quello che è successo nel 2004 con l'istituzione del giorno del ricordo è la prosecuzione di un'operazione iniziata 80 anni fa, con gli stessi intenti, antislavi, anticomunisti sostanzialmente, e antipartigiani. Questo è, ed è stata un'operazione, tu nell'introduzione che hai fatto hai parlato di cioè che questa operazione e le cose che vengono raccontate sono in realtà come? È una costruzione faziosa. Sì, ma hai usato anche un'altra parola come per dire che non sono efficaci. In realtà sono state efficacissime, sono riuscite a convincere il popolo italiano che tutto questo sia vero. Noi diciamo anche come gruppo di resistenza storica e voi come gruppo da molti anni cercate di contrastare, però sono operazioni che vanno contro un sistema mass mediatico e come insomma fare con le lance contro le cannoniere, insomma, no? Hanno messo in piedi un sistema propagandistico enorme e continuano a farlo. Allora bisognerebbe chiedersi: ma la Jugoslavia non esiste più, i partigiani sono più o meno tutti morti, qualcuno che aveva 16-17 anni al tempo magari è ancora vivo, ma insomma sostanzialmente sono passati quasi 80 anni dalla fine della resistenza e anche diciamo la memoria della resistenza è sempre meno forte. Il Partito Comunista non esiste più, il mondo che faceva capo all'Unione Sovietica non esiste più da 30 anni. Quindi, cioè, mentre il comunismo dicono che non esiste più, l'anticomunismo è più forte che mai invece, no? E quindi anche questo bisognerebbe chiedersi perché. E continuano ancora, non sono ancora contenti di tutto quello, di tutte le invenzioni che hanno fatto. Invenzioni e decontestualizzazioni, perché dell'operazione Valkenbruch non vi raccontano mai, cioè sembra che le foibe istriane per esempio siano avvenute in un mondo, l'Istria era l'unica regione in pace durante la seconda guerra mondiale, si parla di violenze come se improvvisamente si passasse da una situazione di calma e tranquillità assoluta, arrivano gli slavi barbari, impazziscono e si mettono ad arrestare, ammazzare, a infoibare. Cioè questa è la narrazione che viene fatta. E evidentemente accanto alle omissioni c'è la decontestualizzazione. E questo cosa significa? Che purtroppo, spero di non essere stracapita e di non offendere nessuno, ma in Italia viviamo in una bolla di ignoranza, almeno su questa storia qua. Qualsiasi cosa venga narrata viene creduta, salvo naturalmente i presenti e un po' di altre persone che non sono numerosissime però. E quindi bisogna chiedersi perché succede questo, e come crediamo a queste cose, crediamo anche a tante altre cose probabilmente di cui non ci rendiamo conto. Quindi questa vicenda del confine orientale o Alto Adriatico, come lo vogliamo chiamare, secondo me è una sorta di cartina tornasole della nostra capacità anche di capire il presente attraverso la storia, no? Quali erano le altre domande? Quali sono le complicità politiche di questa cosmesi? Ecco, sì. Questo è potuto succedere evidentemente perché il mondo antifascista non ha reagito nel modo in cui doveva reagire, perché altrimenti i fascisti che hanno portato avanti questa narrazione non avrebbero avuto nessuna possibilità di imporsi, perché non avrebbero avuto nessuna motivazione. E quindi cosa è successo? Che con gli anni 90, con la fine della Jugoslavia, la fine del Partito Comunista, una memoria della resistenza sempre meno forte, praticamente la vicenda, c'era tutto un mondo politico, quello che aveva fatto riferimento al Partito Comunista, per esempio, o comunque alla sinistra, che doveva riciclarsi nel il look politico, nel nuovo mondo che era nato dopo la caduta del muro di Berlino. E quindi bisognava far dimenticare di essere stati iscritti al Partito Comunista, per esempio. E anche bisognava far dimenticare di essere stati troppo legati al mondo partigiano, eccetera. Però non si poteva farlo subito, perché in Italia c'era ancora una memoria. E quindi diffamare la lotta partigiana jugoslava poteva essere un modo per dire: noi prendiamo le distanze da queste cose, ma gradualmente, no? Infatti negli anni 90 poi ci sarebbe stato l'attacco anche alla lotta di liberazione italiana, ma intanto lo si faceva nei confronti della lotta di liberazione jugoslava, e quindi si poteva dire di tutto, tanto non si conoscevano le cose e si poteva credere tutto. Per cui, per esempio, Josip Broz Tito, che è stato un grandissimo comandante partigiano prima di tutto, ma poi anche un grande uomo di Stato, è passato per essere un boia, per essere un criminale di guerra. In questi giorni al Parlamento stanno decidendo una legge per poter togliere un'onorificenza che la Repubblica Italiana aveva dato a Tito, e questo viene fatto sulla pressione proprio del mondo fascista. Se questo succederà, e lo stanno discutendo in questi giorni proprio, secondo me sarà la fine della parabola di questa vicenda, nel senso che bisogna riflettere su questo fatto. L'esercito di liberazione jugoslavo faceva parte del mondo degli alleati nella seconda guerra mondiale. Quindi se Josip Broz Tito diventa un criminale di guerra è proprio l'inizio della revisione dei trattati di pace della seconda guerra mondiale, e questo è qualcosa che può mettere in movimento le cose più terribili. Questa revisione dei trattati di pace è sempre stata un punto di forza ideologico del mondo degli esuli istriani, che non significa tutti coloro che sono stati esuli istriani in Italia, ma significa quelli che hanno governato il mondo degli esuli, che hanno ricreato in Italia gli stessi rapporti di classe che c'erano in Istria prima della Seconda Guerra Mondiale, e praticamente queste organizzazioni sono governate dagli eredi dei fascisti. Loro non si sono mai arresi al fatto che l'Istria sia stata assegnata alla Jugoslavia. Non si sono mai rassegnati al fatto che l'Italia era un paese che aveva perso la Seconda Guerra Mondiale dopo aver aggredito tutti i paesi d'Europa e aver commesso da parte dell'esercito italiano crimini orrendi in tutti i posti che erano stati occupati e invasi, e la Jugoslavia prima degli altri. Quindi hanno sempre cercato in tutto questo dopoguerra di creare situazioni di tensione per poter mettere in discussione il trattato di pace. E sono riusciti a farlo proprio con la legge del 10 di febbraio. Perché? Perché hanno scelto il 10 di febbraio perché è il giorno della firma del trattato di pace nel 1947, quindi aver attribuito il dramma che comunque molte persone hanno vissuto dovendo venire via dall'Istria, o scegliendo di venire via dall'Istria, anzi, attribuirlo al momento del trattato di pace invece che alla guerra che è stata fatta dal fascismo è un atto di revisionismo vero, vero e proprio. E all'interno di questa vicenda c'è l'altra grande omissione e mistificazione che viene fatta, e cioè il fatto che dicono che, a parte i numeri, dicono 350.000, sono molti di meno, e di questo magari sa meglio di me Piero, ma dicono che sono che gli italiani, gli esuli dell'Istria, sono venuti via per paura delle foibe. L'esodo è durato 15 anni, dal 43, forse anche prima, fino all'inizio degli fino alla fine degli anni 50, e quindi non può essere attribuito alla paura delle foibe, ma soprattutto non si dice che era previsto dal trattato di pace che gli abitanti dell'Istria, della Venezia Giulia in generale, dovessero scegliere se diventare cittadini jugoslavi oppure restare cittadini italiani. Coloro che non volevano diventare cittadini jugoslavi dovevano andare via. Questo era previsto dal trattato di pace. E quindi questa è un'altra delle omissioni che contribuiscono a questa narrazione falsa che viene data. Poi c'era ancora un'ultima domanda. L'ultima domanda è quella, diciamo, quali sono gli anticorpi per resistere e non compromettere completamente la memoria storica? Ecco, di non essere lance contro cannoni, ma semmai granelli di sabbia nell'ingranaggio. Sì, la risposta è che bisogna conoscere le cose il più possibile, e ognuno di noi quando le cose le conosce diventare quello che io dico, partecipare a questa sorta di guerriglia culturale che stiamo facendo, guerriglia nel senso che, come dicevo prima, noi agiamo con i fucili contro le cannoniere, insomma, no? E quindi sì, dato che qualche volta la guerriglia ha vinto nella storia, magari può darsi che riusciremo anche noi, però un grande lavoro bisogna che riusciamo a farlo proprio nel mondo antifascista, perché nei confronti di coloro che sono di destra, che sono convinti di questa narrazione, non abbiamo speranze. Però purtroppo nel mondo antifascista Ci sono stati molti cedimenti rispetto alla narrazione del 10 di febbraio, per tanti motivi, perché molti anche vogliono prendere un po' le distanze da un passato che viene presentato come un passato di violenze e di tragedie. Cioè sembra che gli unici che possono aver commesso delle violenze durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati comunisti o sono stati partigiani. C'è tutta questa operazione che si è svolta negli anni 90, i vari Panzer, ma non solo, Petracco, eccetera, che hanno raccolto tutta una serie di episodi che insomma durante la lotta partigiana ci sono stati anche quelli che hanno agito male o che avevano intenti diversi da quelli della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, e quindi volendo fare un elenco di cose si trova sempre qualche esempio di uccisioni che non dovevano essere fatte o di azioni diciamo criminali ma la resistenza è stata altro, no? Però se tu prendi la narrazione una dopo l'altra ottieni un risultato di una operazione completamente fatta di un insieme di assassini, un insieme di uccisioni sempre decontestualizzate dal contesto, no? E quindi questa operazione che è stata efficacissima negli anni 90 ha fatto sì che anche nel mondo antifascista si voglia spesso prendere le distanze da quella che è stata la nostra storia. Ecco, io credo che dobbiamo prendere coscienza che invece la nostra storia va recuperata proprio per l'importanza che ha avuto e perché se abbiamo potuto vivere fino a qualche anno fa in una situazione di democrazia anche o comunque di miglioramento della nostra vita, è stato soprattutto per la lotta di liberazione, e purtroppo stiamo perdendo la gran parte di quello che avevamo conquistato, e questo avviene anche proprio per questo cedimento culturale e politico che c'è stato. Grazie. Veramente esaustivo, quindi passiamo a Piero. La domanda prende spunto dal libro proprio Metamorfosi etniche, che parla della porosità del confine, quello che viene definito il luogo confine orientale, diciamo non un'omogeneità culturale ma qualcos'altro. Ecco, la domanda dice così: la narrazione tossica del cosiddetto confine orientale è lontana dal confronto tra italiani e con gli altri attori, che sono sloveni e croati, che da sempre abitano questo territorio. Quando questo punto di vista prettamente italiano prende il sopravvento, come diventa più feroce e aggressivo da diventare assimilazionista? Perché all'interno della cornice narrativa sulle foibe si usa invece in maniera inappropriata la parola pulizia etnica, vedi Pupo? Come potrebbe essere giustamente definito questo luogo, o il luogo, come l'abbiamo detto scherzando? Prova. E se è praticabile una memoria multietnica anziché nazionalistica? Buonasera. Non ho il telefono e non ho l'orologio, per cui magari... Provi se mai prende il tempo, 25 minuti. Ok. Per spiegare un po' quella che è la complessità di questo territorio, che è anche molto difficile da definire con un nome, che nella vulgata italiana viene definito confine orientale, un termine che io aborro, perché è un termine italocentrico, perché chiaramente è un confine orientale per l'Italia, ma per la Slovenia è confine occidentale, per l'Austria era addirittura il confine meridionale, per certi versi il vero confine meridionale sarebbe stato quello con la Serbia. Però ad esempio quando scoppia la prima guerra mondiale, quando si apre il fronte sul Carso, si parla di fronte italiano, non si parla di fronte occidentale, orientale, eccetera. Per cui il termine confine orientale, secondo me, è un'aberrazione storica, perché già in questo dà un'idea italocentrica. Da un'idea italocentrica di un territorio che in realtà è talmente complesso che non ha nemmeno un nome unico, perché in croato e in sloveno la zona di questo territorio, che in questo momento potremmo dire comprende Fiume, comprende l'Istria, comprende Trieste, l'attuale provincia di Trieste, comprende l'attuale provincia di Gorizia, peraltro si spinge anche un po' la Valle dell'Isonzo. Sì, la Valle dell'Isonzo, Tolmino, Caporetto, eccetera, eccetera, e si spinge addirittura sul cosiddetto Friuli austriaco. Per cui una zona che è estremamente variegata sotto tutti i punti di vista, sotto un punto di vista degli abitanti che parlano di diverse lingue e diversi dialetti. Peraltro Hobsbawm dice che un dialetto è una lingua senza esercito, che mi sembra una definizione perfetta. È variegata da un punto di vista sociale, è variegata da un punto di vista culturale, è variegata da un punto di vista linguistico e dunque non ha nemmeno un nome, perché in croato e in sloveno si chiama Primorska, che vuol dire la zona vicino al mare, in tedesco si chiama Küstenland, che vuol dire zona costiera, terra costiera, litorale. In italiano all'epoca si chiamava litorale, e poi si inventa questo termine meraviglioso, perché è geniale da un punto di vista linguistico, che è Venezia Giulia, no? Venezia Giulia dunque è un termine che è un termine italianissimo, è un termine che nelle sue due parole riunisce ciò a cui si richiama l'Italia, cioè la gens Giulia, le Alpi Giulie, eccetera eccetera, dunque siamo romani, e Venezia, l'altra città che poi la Repubblica, Serenissima Repubblica, che poi con un'acrobazia storica si identifica come uno stato italiano, ma in realtà se andate alla Biblioteca Marciana vi ritrovate un sacco di documenti scritti direttamente in veneziano, altri scritti in latino, altri scritti, qualcuno anche scritto in italiano, certo, però non si può sicuramente definire la Repubblica di Venezia come uno stato italiano, perché è comunque un paese che per buona parte si estende al di fuori dell'Italia, tutta la Dalmazia, le isole greche, Cipro. A un certo punto ci saranno addirittura degli avamposti sul Mar Nero e così via. Dunque termine geniale, perché è come dire, questo territorio non ha un confine ad est, ci possiamo espandere sia nella direttrice che è stata quella del mondo romano, sia quella che è stata la direttrice del mondo veneziano. Eppure questo territorio, che ribadisco, a cui salto a piedi pari sulla domanda successiva, il nome, io non so dare un nome a questo territorio, lo chiamo Alto Adriatico, però Alto Adriatico, insomma, magari per l'alta Valle dell'Isonzo è un po' non è proprio centrato. Comunque, insomma, giusto per capirsi, forse sarebbe meglio proiettare una slide e dire più o meno a che zona ci si riferisce. Comunque è un territorio che improvvisamente nei libri di storia compare come il 1918. Prima non se ne parla assolutamente. Prima questo territorio è assente dalla storia italiana. E anche quando io andavo a scuola elementari, magicamente la storia di Trieste cominciava il 4 novembre 1918 e tutto quello che c'era prima non esisteva. Perché? Perché non era una storia rigorosamente prettamente italiana, perché questa zona era una zona, come ho spiegato prima, mista, era una zona in cui ci stavano l'Italia nel 18 si annette appunto quella che chiama Venezia Giulia, è che ha una maggioranza di abitanti che sono sloveni croati, la maggioranza degli abitanti non sono italiani. Poi anche in questo in realtà è una semplificazione, perché ad esempio nella zona dell'attuale confine tra Slovenia e Croazia si parla un dialetto che non è né chiaramente croato né chiaramente sloveno, si parla un dialetto misto, più a est si parla il ciccio, che è addirittura romeno. E a Trieste c'è una teorica maggioranza di italiani che però si esprimono, come tuttora si esprimono, in dialetto triestino. E più a ovest si va in Bisiacaria, che è una zona, che è la zona del Monfalconese, in cui si parla un dialetto triestino che è più simile in certi, per certi versi al Veneto, poi si parla friulano, poi a nord si parla sloveno, a sud tedesco, si parla croato, ci sono i tedeschi che sono a macchia di leopardo, a Trieste sono censiti nell'ultimo censimento del 1910, sono censiti 12.000 tedeschi, a Fiume ci sono addirittura gli ungheresi, e questo sarebbe un territorio italianissimo. Poi consideriamo anche che molte di queste persone non hanno un'unica cultura, ne hanno di più. Ad esempio mia nonna si esprimeva tranquillamente in tedesco con suo papà e in italiano con sua mamma, italiano, dialetto triestino, e in realtà in tedesco si parlava il tedesco, il dialetto tedesco di Trieste, che era simile al viennese. E da parte di mio papà parlavano lo sloveno i genitori, con i figli parlavano in dialetto triestino, e per cui c'erano un sacco, c'erano persone che si erano sposate appunto tra appartenenti a diversi a diverse categorie, a diversi popoli, etnie, nazionalità, non so neanche definire, e mi dà anche fastidio dover definire. Io ho chiamato questo libro Metamorfosi etniche perché non sapevo come chiamarlo, perché sono metamorfosi che sono etniche, ma sono metamorfosi nazionali, sono metamorfosi linguistiche, è tutto un insieme che poi quando si deve fare la storia si taglia con l'accetta, per cui tutto quello che è, anche questo termine mi piace tantissimo, tutto quello che è meticcio, tutto quello che è misto sparisce. E appunto l'Italia a un certo punto magicamente nel 1918 entra in possesso di questo territorio che prima non esiste nella storia italiana, con 600.000 morti che compensano i 600.000 sloveni e croati che vengono annessi. E c'è questa appunto annessione in cui improvvisamente questo territorio, che è un territorio che è completamente mentalmente estraneo allo Stato-Nazione italiano, si ritrova a essere catapultato in questa nuova realtà. Fino a quel momento la Venezia Giulia, come moltissimi altri territori dell'Impero Asburgico, è stato un territorio in cui si sono parlate, ci sono quattro lingue ufficiali nella Venezia Giulia. Si possono, se io ho un processo, posso rivolgermi al tribunale scegliendo tra il croato, lo sloveno, l'italiano o il tedesco. E con la pubblica amministrazione ci si relaziona nella lingua che è più congeniale. Improvvisamente nel 18 questa complessità salta. Nel 18 lo Stato italiano, che è figlio dell'idea romantica dello Stato-Nazione, in cui lo Stato coincide con la nazione, coincide con i parlanti di quella lingua, si impadronisce di questa zona, anzi si impadronisce di due zone, perché si impadronisce anche del Sud Tirolo, che è una zona che invece è fortemente a stragrande maggioranza tedesca, e sono delle zone che sono anomale, e sono delle zone che non vengono mai nemmeno capite dallo Stato italiano. E qual è la soluzione? La soluzione sicuramente, in un paese vittorioso, in un paese che ha basato tutta la prima guerra mondiale sulla retorica nazionalista, sulla retorica inventata da D'Annunzio, no? La retorica d'annunziana della millenaria cultura italiana, della superiorità degli eredi di Roma rispetto alle barbariche popolazioni slave, addirittura ai barbari tedeschi, un paese così non si può, non riesce a gestire questo territorio se non italianizzandolo. Sostanzialmente, appunto, nella domanda dicevi quando il punto di vista italiano prende il sopravvento. In realtà il punto di vista italiano parte in sopravvento già prima di annettere questa zona, stabilisce che se e quando verrà annessa, anzi il se non è contemplato, quando questa zona verrà annessa, si dovrà procedere a una sua italianizzazione che passa attraverso sostanzialmente due possibilità. Una è assorbire nella grande cultura italiana le popolazioni che italiane non sono, e l'altra è quella di mandarli via, espellerli. E infatti E qua vengo a un'altra delle domande che è detto: si può parlare di pulizia etnica? Cioè, perché pulizia etnica? In realtà è inappropriato. È inappropriato parlare dopo la seconda guerra di pulizia etnica, ma possiamo tranquillamente parlare dopo la prima guerra di pulizia etnica, perché proprio nei progetti fascisti si parla testualmente di bonifica etnica del territorio, cioè del fatto che le zone miste o le zone in cui ci sono c'è la maggioranza della popolazione che è slovena o croata o tedesca debba essere bonificata, debba essere italianizzata, come diceva Alessandra prima, o attraverso l'iniezione di italiani immigrati nel territorio o attraverso il cambio dell'identità nazionale, per cui le persone, appunto, se vogliono restare devono decidere di italianizzarsi. Esempio lampante, i miei nonni sloveni fino al 1918, dal 1920 non parlano più con i figli in sloveno perché è pericoloso. Mio papà non sapeva più lo sloveno e parlano rigorosamente solo in italiano, anzi in dialetto triestino. Si può parlare prima di italianità? Beh, io non sono neanche convinto di questo, cioè alla fin fine, se andiamo a vederci i censimenti, vediamo appunto che proprio perché lo Stato ha bisogno di queste semplificazioni eccetera eccetera, viene chiesto agli abitanti già in epoca asburgica di dare una propria identità italiana, slovena, croata, tedesca, insomma quel che è, e la maggior parte degli italiani si definiscono, la maggioranza della popolazione di Trieste ad esempio si definisce italiana. Poi insomma non vado, sarebbe troppo lungo, se volete avere tutte le sfaccettature di questa questione vi prendete il libro e via, però c'è anche l'aperitivo, però quello che è interessante è vedere che comunque essere italiani non significa volere l'annessione di questo territorio all'Italia. Non tutti gli italiani sono irredentisti, e in questo mi piace sempre fare l'esempio della Svizzera. Attualmente esiste una parte della Svizzera, il Canton Ticino, la Svizzera italiana, in cui la maggioranza si definisce assolutamente italiana per cultura, per lingua, eccetera, eccetera. Ma andiamo a chiedere quanti di questi vorrebbero essere annessi all'Italia, fa da ridere, nessuno. Perché? Perché chiaramente non conviene da un punto di vista economico. Cioè, che Svizzera, sono uno stupido, direbbe: ah, io voglio mollare la Svizzera per andare a stare in Italia, per andare a stare economicamente peggio. La stessa cosa funziona a Trieste e nella Venezia Giulia, in questo territorio che chiamiamo Venezia Giulia convenzionalmente, bla bla bla bla, avviene fino al 1918. In realtà chi vuole l'annessione all'Italia? Vuole un'annessione proprio l'alta borghesia, perché sta perdendo terreno rispetto alle nuove borghesie che stanno arrivando a Trieste, che sono la borghesia slovena, la borghesia ceca, gli ebrei viennesi, che stanno investendo in maniera molto forte da quando Trieste è diventata praticamente, anche questa è la questione un po' complessa, però sostanzialmente Trieste è stato un porto franco fino al 1891, quando perde la franchigia. Se uno vuole fare affari a Trieste deve sapere gestirli pagando le tasse. Fino a quel momento l'alta borghesia italiana aveva sempre vissuto di rendita, sulle rendite di posizione, senza pagare le tasse. A questo punto si trova per la prima volta a dover fare i conti con una concorrenza di altre borghesie, e dunque automaticamente l'unico modo per riuscire a mantenere il controllo sulla città qual è? È proprio quello di dire: vabbè, a questo punto siamo sempre stati fedelissimi sudditi asburgici, no, a questo punto ci conviene diventare redentisti. Esempio lampante, le assicurazioni generali. L'assicurazione generale penso che le conoscete tutti. Sapete qual è il simbolo, no? Il leone. In realtà le assicurazioni generali nascono con un altro simbolo. Il primo simbolo delle assicurazioni generali che nascono a Trieste nel 1831 è l'aquila bicipite. E poi, però, per fare affari in Italia, la filiale italiana si mette il leone di San Marco. Quando cade la monarchia asburgica, le assicurazioni generali cancellano il simbolo dell'aquila bicipite, che serviva praticamente per tutto il resto dell'Europa, e sostituisce questo con il leone di San Marco. Per cui c'è questo passaggio della borghesia da una fedeltà asburgica, sono fedelissimi sudditi degli Asburgo, e diventano magicamente italianissimi. Però è un'italianizzazione sostanzialmente artificiale, come è artificiale anche per quanto riguarda i piccoli, gli appartenenti alle classi più basse, che si italianizzano perché per poter restare a lavorare e abitare nella zona. Tra l'altro è interessantissimo il fatto che uno dei primi provvedimenti che sono fatti dall'Italia, praticamente l'Italia nei primi due anni in cui occupa la Venezia Giulia, la occupa con un governatorato militare, e se non sbaglio il quinto provvedimento preso dal commissario militare Pettiti di Roretto è il divieto per i reduci dell'esercito austriaco che non siano di nazionalità italiana di ritornare a Venezia Giulia. In sostanza, se questi avevano fatto la guerra, che so io, nei Carpazi, erano stati fatti prigionieri ai russi, oppure avevano fatto la guerra in Serbia, eccetera, e tornavano indietro, se non dimostrano di essere di nazionalità italiana, non possono rientrare. E dunque, se io sono uno sloveno che ha sempre vissuto a Postumia, che ho la casa lì, ho il lavoro lì, eccetera, eccetera, non posso ritornarci se non dimostro di essere italiano. In realtà poi è un provvedimento che fa acqua da tutte le parti, perché bene o male basta saper spiaccicare qualche parola e si riesce a ritornare in italiano, e si riesce a ritornare. La maggior parte delle persone che abitano in questa zona comunque qualcosa di italiano lo sa, per cui riesce a tornare. Poi in quel momento il confine, la linea di armistizio tra Italia e quella che poi diventerà Jugoslavia è una specie di colabrodo, per cui si passa lo stesso. Però è interessante vedere l'intenzione dell'Italia. L'intenzione dell'Italia è immediatamente quella di italianizzare forzatamente un territorio che fino a quel momento è stato un territorio misto. E un'altra delle domande che avevi detto è quando prende sopravvento questo punto di vista italiano è quando diventa più aggressivo. Diventa più aggressivo da subito. Diventa aggressivo fin dal 1918, diventa aggressivo nella propaganda ancora prima, e poi insomma abbiamo tutte le violenze di epoca fascista. Poi in realtà nella nostra zona, nella, chiamiamola così, nella nostra zona di noi due in questa zona in realtà non c'è assolutamente soluzione di continuità tra la politica adottata dall'Italia prefascista e dall'Italia fascista. Il fascismo comincia in questa zona ancora prima del fascismo. Si parla di fascismo di frontiera proprio perché questa zona è la culla del fascismo, è la culla degli esperimenti è la culla della violenza, degli esperimenti squadristici, delle violenze prima contro gli sloveni e croati, che poi si estendono alle violenze contro la sinistra e così via, tanto che appunto sloveni e croati in qualche modo formeranno sempre lo zoccolo duro della sinistra, proprio perché in qualche modo essere sloveno e croato vuol dire quasi automaticamente essere antifascista. E viceversa, essere italianissimo significa essere fascista. Peraltro quando si dice appunto che sono stati tutti questi che sono stati uccisi dopo la seconda guerra mondiale sono stati uccisi in quanto italiani, a parte che è un'aberrazione, però proprio volendo andare a monte è proprio Mussolini a dire che l'identità tra Italia e fascismo è perfetta. E dunque insomma ci si lamenta che ci sono state le vittime in quanto italiane, quando era lo stesso Stato italiano a evidenziare questa identità tra Italia e fascismo. Quanto tempo ancora? 5 minuti. Non so, sul nome o... Ah sì, ecco, perché... E qua vengo alla annosa questione. Perché il termine pulizia etnica è profondamente errato, anzi secondo me è proprio una costruzione retorica, perché in realtà è quello a cui si assiste nel 1943-1945 non è una pulizia etnica. Se fosse una pulizia etnica non ci sarebbero stati innanzitutto questo numero di grandezza degli uccisi. Ci sarebbero state centinaia di migliaia di morti se fosse stata una pulizia etnica, cosa che assolutamente non è successa. È stata, a mio avviso, la resa di conti col fascismo, per cui sono stati ammazzati i fascisti e i collaborazionisti, anche secondo me sono stati ammazzati peraltro i pesci piccoli, perché i pesci grandi, i pezzi grossi sono scappati molto prima che venissero fuori questi casini, perché già con la prima guerra mondiale, con l'inizio, prima dell'8 settembre, quando si comincia a vedere che il sistema italiano, il sistema militare italiano sta collassando, una buona parte di quelli che veramente contano si rifugiano prima a Trieste e dopo addirittura se ne vanno via da Trieste. Parlo dei pezzi grossi fascisti. E poi quando appunto abbiamo le foibe 43, tecnicamente in realtà secondo me è abbastanza corretto quello che si dice, che è una sorta di Jacquerie delle rivolte contadine medievali, in cui in un momento in cui ci si trova di fronte al collasso completo di uno Stato, ci si trova di fronte alla perdita completa dell'autorità, e le autorità non hanno più la possibilità di reagire con la violenza, perché l'esercito si è dissolto, la polizia si è dissolta, i carabinieri sono scappati, eccetera eccetera eccetera, per cui l'autorità non è più garantita dalle tra virgolette forze dell'ordine. E a questo punto, in una situazione del genere, soprattutto dopo 20 anni, 30 anche se torniamo indietro, di vessazioni, è chiaro che chi ha dei conti in sospeso, e non si sta parlando del conto in sospeso di chi ti mette le macchine in doppia fila, si parla di conti in sospeso di gente che ha avuto i fratelli deportati, il marito ammazzato, eccetera eccetera, cioè di veramente ha subito delle violenze, ha subito dei soprusi veramente pesanti. A questo punto mi sembra anche abbastanza normale che quando salta completamente l'autorità uno si approfitti e si faccia giustizia da sé. Per cui secondo me assomiglia moltissimo a queste rivolte contadine, quelle medievali, in cui pensiamo alla rivolta dei contadini all'epoca di Lutero, Thomas Münzer, eccetera eccetera, in cui chi ha subito violenza e soprusi per secoli, eccetera eccetera, a un certo punto approfitta della prima occasione, si incazza e fa fuori chi capita. Purtroppo di mezzo ci vanno ogni tanto anche delle persone che non c'entrano un tubo, ci va in mezzo il messo comunale che portava i mandati di arresto o il mandato di comparizione, eccetera eccetera, ma sono dei casi anomali. Altra cosa, si fa spesso confusione appunto tra foibe e deportazioni. La maggior parte delle persone che scompaiono e muoiono scusate, per mano jugoslava o partigiana, e la maggior parte delle persone che vengono eliminate per questo, che vengono eliminate, che muoiono, non muoiono nelle foibe. Le foibe sono un episodio numericamente marginale, muoiono perché vengono deportati. Scusate, ma chi sono questi deportati? Sono appartenenti a delle formazioni collaborazioniste, sono persone in divisa, possono essere ex finanzieri, ex carabinieri, ex poliziotti, membri della milizia volontaria di difesa territoriale, guardie carcerarie, chi c'è ancora, guardia civica, eccetera eccetera. Ricordiamoci che in questo periodo tutta la Venezia Giulia è sotto l'autorità tedesca, non è sotto l'autorità italiana, per cui chi appartiene a queste formazioni hanno fatto tutti un giuramento di fedeltà al Reich e dunque sono tutti formalmente collaborazionisti, e dunque chi muore in deportazione in realtà muore come capita a tutti i soldati fatti prigionieri in Russia, in Africa, a quelli che sono prigionieri degli americani, a quelli che sono prigionieri francesi, eccetera, eccetera. Dunque, proprio per questo, non funziona l'idea di foibe o di eliminazione del 43-45 come pulizia etnica. Ultima domanda, come si fa con questa idea di confine se ci può essere una memoria multietnica anziché nazionalistica? Secondo me la questione è molto semplice, bisogna recuperare, riscoprire non più la propria appartenenza nazionale, perché è con questa che secondo me ci stanno fregando da decenni e ci stanno fregando ancora più adesso, proprio in questi ultimi anni, ma bisogna riscoprire la propria appartenenza di classe. Noi siamo, io credo, io personalmente non riesco a darmi un'identità nazionale perché appartengo a una famiglia mista, ho fatto le scuole in Italia, poi ho studiato in Slovenia, ho studiato in Austria, eccetera, eccetera, eccetera, però quello in cui mi ritrovo è la mia appartenenza di classe, cioè quella di un lavoratore dipendente, tendenzialmente sfruttato, no? E dunque io penso che è proprio il ritornare alle proprie origini di classe che deve essere il modo proprio per scardinare queste narrazioni tossiche che sono tutte basate su false appartenenze e falsi valori che alla fin fine sono sempre quelli che sono funzionali al trionfo delle forze capitaliste. Bravo! Allora, passiamo alla terza e ultima domanda a Davide Conti, che potrebbe sembrare di uscire fuori dal seminato, ma alla fine è molto integrante con tutto l'aspetto e il format narrativo delle foibe, perché andremo a parlare di terrorismo, ecco, prendendo spunto da un articolo di Davide che ha scritto su Jacobin e dall'ultimo libro, che purtroppo non c'è sul banchetto ma compratevelo, che si chiama Fascisti contro la democrazia, edizione Einaudi. Vado con la domanda. In un articolo scritto per il numero 16 di Jacobin affermi: il calendario civile italiano, composto da giornate dedicate alle diverse vittime di differenti eventi storici, sembra fatto più per dimenticare che per ricordare. In tutti i casi si veicola una memoria vittimistica quando non revisionista. Nel corso degli anni il paradigma vittimario e autoassolutorio italiano è stato proiettato anche sulla storia recente. Con la legge 56 del 4 maggio 2007 viene istituito il giorno della memoria dedicata alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Perché è stato scelto dalla Camera proprio il 9 maggio per ricordare le vittime del terrorismo, cioè il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro? Perché non per esempio quelle del 12 dicembre del 69, strage di Piazza Fontana? E che parallelismo c'è tra la cosmesi storica messa in piedi tramite la narrazione delle foibe e le vittime del terrorismo? Bisogna essere complessi, ragazzi. Domande complesse per risposte semplici. Allora, intanto grazie per l'invito, grazie a Stefano, grazie agli spazi, grazie ai locali che ci ospitano e grazie a voi per essere venuti così numerosi questa sera. Proviamo a ragionare di costruzione del paradigma vittimario, perché quel paradigma rappresenta l'elemento fondante in radice di una rivisitazione complessiva del perimetro della nostra cittadinanza e anche della strutturazione del nostro spazio pubblico costituente. E partirei da 4 giorni fa, dall'intervento del ministro Sangiuliano sulla stampa a proposito della rivendicazione della sua identità anticomunista, cioè questo articolo che appunto a firma del ministro della cultura si intitola Perché sono anticomunista, e l'argomentazione, assai fragile dal punto di vista culturale, prende le mosse, muove da una risoluzione, quindi da un episodio di politica memoriale del 19 settembre del 2019, quando il Parlamento europeo in seduta comune approva una mozione che equipara nazismo e comunismo. Ora, quella mozione, che sostanzialmente prova a spiegare che se a Stalingrado fosse passata la Wehrmacht i destini degli esseri umani del nostro pianeta sarebbero stati gli stessi, perché se nazismo e comunismo pari sono, questo significa, quell'esito, quella transizione ad un racconto, oggi si chiama narrazione memoriale, distonico rispetto a come si sono realmente svolti i fatti, cioè distonico rispetto al nostro rapporto dialettico tra passato e presente, è l'esito di ultima istanza di un processo di lunga durata che naturalmente ha trovato in Italia il suo laboratorio di origine. Perché a partire dalla fine degli anni 90 il nostro paese diventa appunto il luogo in cui si producono, sperimentano, elaborano le cosiddette politiche memoriali, cioè la costruzione attraverso dei sistemi legislativi di costruzioni selettive della memoria pubblica, che scelgono cioè cosa ricordare e cosa dimenticare. Sottraggono cioè allo spazio della ricerca scientifica, così come del dibattito culturale, l'essenza, la funzione di una disciplina come la storia dentro il nostro perimetro, diciamo così, della cittadinanza costituzionale. Allora vediamo quali sono questi esperimenti, queste date, perché vengono istituite, con quali forme e anche con quali voti, con quali consensi, perché anche questo restituisce molto del precipitato storico, cioè di quella transizione particolarissima che l'Italia ha visto prima, diciamo, manifestarsi nel passaggio dal fascismo alla democrazia e poi nel passaggio dalla fine della guerra fredda all'era della globalizzazione. La prima legge memoriale viene istituita con il 27 gennaio, istituita nel 1999, tra il 1999 e il 2000, ed è una data particolarmente rilevante perché immediatamente richiama il rapporto del nostro passato con la Seconda Guerra Mondiale, cioè con la guerra totale, che è stata guerra ideologica prima ancora che nazionale. Quando si parla di conflitti nazionalistici dentro la Seconda Guerra Mondiale si commette un errore metodologico in termini di interpretazione, perché mai nessun conflitto fino a quel momento era stato meno nazionale della Seconda Guerra Mondiale. Gli italiani antifascisti si augurano la sconfitta del proprio paese, così come i dissidenti politici tedeschi, così come gli oppositori di Horthy in Ungheria, di Pilsudski in Polonia e via dicendo. La Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra totale, trasversale ed ideologica, perché si è combattuta su base volontaria, su scelta politica. Cos'altro è l'esercito partigiano in Jugoslavia, in Grecia, in Albania, in Italia, in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo rapporto torsivo col nostro passato trova immediatamente nella istituzione della giornata della memoria un elemento di espressione, non direttamente riconducibile ad una chiave revisionista, ma riconducibile ad un modello di elusione dei conti col passato fascista del nostro paese. Quando viene portata in Parlamento la mozione che chiede di istituire la giornata della memoria, il dibattito che si accende è sostanzialmente attorno a due date, il 27 gennaio e il 16 di ottobre. Ora, il 27 gennaio è una data celebrata in tutto il mondo, riconosciuta a livello internazionale, perché come sapete il 27 gennaio del 1945 i soldati dell'Armata Rossa liberano il campo di Auschwitz-Birkenau in Polonia. È una data appunto celebrata in tutto il mondo, ma poiché la storia deve avere una funzione pedagogica, in Francia per esempio, un paese che non ha dato i natali al fascismo, che non ha votato le leggi razziali, che non ha riempito con meccanismi sistemici di Stato i vagoni piombati di esseri umani per deportarli nei campi di sterminio, ecco, in Francia, per il solo fatto di aver avuto al proprio interno, dentro il proprio corpo nazionale della nazione, una repubblica collaborazionista, quella di Vichy, che il 16 luglio del 44 con suoi uomini della polizia politica, rastrella 10.000 ebrei parigini e li deporta nei campi di sterminio. Per questa ragione la Francia discute, dibatte e istituisce una giornata della memoria francese, che insieme al 27 gennaio esprime una modalità pedagogica della storia dentro lo spazio pubblico. Ricorda cioè alla Francia che c'è stata un'anima nera dentro il corpo della società. Quando la mozione sull'istituzione della giornata della memoria viene portata nel Parlamento italiano, il paese che ha dato i natali al fascismo, che ha votato le leggi razziali, che ha fatto la guerra a fianco di Hitler e che ha riempito i vagoni piombati per deportare esseri umani nei campi di sterminio, boccia la mozione che era, diciamo così, che si proponeva di richiamare il dibattito in Francia, la mozione che chiedeva di istituire la giornata della memoria il 16 ottobre, il giorno del rastrellamento antiebraico di Roma, sul modello del rastrellamento antiebraico di Parigi, e vota all'unanimità l'istituzione della giornata della memoria il 27 gennaio, che nell'immaginario collettivo italiano racconta di un carro armato russo che entra in territorio polacco e apre, rompe il reticolato di un campo di sterminio tedesco. L'immagine, l'esistenza stessa di una presenza italiana in questo quadro viene meno, e con essa i conti con la storia, cioè l'interfaccia tra passato e presente, che è espressione della profondità, della capacità di trasmissione del sapere che la storia esprime. Perché la storia o fa questo o non è, evidentemente, o costruisce un orizzonte di senso rispetto ai fatti che racconta, o è semplice cronaca dei fatti e degli eventi. Il 10 febbraio naturalmente assume in questo contesto una forma e una funzione molto più avanzata in termini di rivisitazione, rovesciamento del senso, addirittura sostituzione dei ruoli storici dei soggetti in campo. Perché, l'abbiamo sentito prima, il 10 febbraio si proporrebbe di celebrare le vittime delle foibe, e prendiamo per buono, scendiamo su questo terreno e quindi esercitiamo il primato della critica ragionando su questo terreno. Se si fosse voluto istituire questo giorno del ricordo per celebrare le vittime delle foibe in ragione dell'intelligenza dei fatti, cioè degli accadimenti del nostro passato, avremmo dovuto istituire la giornata in ricordo delle foibe del 43, fine settembre, inizio ottobre, oppure delle foibe del 45, in maggio, quindi. E invece con voto bipartisan viene istituita la giornata del ricordo il 10 febbraio, che con le foibe non c'entra naturalmente nulla, ma come abbiamo detto prima, in quel giorno ricorre l'anniversario della firma del Trattato di Parigi, ovvero della conclusione anche diplomatica del più grande massacro di massa della società moderna che l'Italia ha contribuito a scatenare a fianco della Germania hitleriana, costruendo un rovesciamento dell'identità dei soggetti storici in campo e trasformando quindi gli aggressori italiani del 6 aprile del 1941 in aggrediti, e gli aggrediti del 6 aprile del 1941, il popolo jugoslavo, in aggressore. Ed è un rovesciamento del senso della storia, perché si pone, lo diceva Alessandra inizialmente nella parte iniziale del suo intervento, si pone in contestazione di legittimità con gli esiti di quel trattato. Ora, quando il capo delegazione del governo italiano, che si chiamava Alcide De Gasperi a Parigi, firma quel trattato, torna in Italia per la ratifica del Parlamento, che avverrà all'unanimità, a considerare quel trattato una mutilazione del territorio nazionale, un diktat per l'Italia, era solo ed esclusivamente la sparuta minoranza comunitaria dei reduci della Repubblica Sociale Italiana, cioè dei fascisti, che la guerra, per fortuna, avevano perduto. Oggi, con l'istituzione di questa giornata dentro questo crinale del ragionamento storico, si apre una contestazione di legittimità indiretta che dunque pone all'ordine del giorno la rivisitazione stessa di quegli esiti, cioè degli esiti della Seconda Guerra Mondiale. E dunque la lettura stessa dei fatti relativi al secondo conflitto mondiale. In marzo celebriamo la giornata dell'unità nazionale. Qui l'Italia non è più soltanto un laboratorio, è un caso unico al mondo, perché per decreto si istituisce la celebrazione dell'unità nazionale il 17 di marzo, in ricordo della promulgazione dei decreti che unificano i territori del Mezzogiorno al Regno di Savoia. Qui, se non fosse sufficiente la storia, anche una cartina geografica dell'epoca ci può aiutare a capire l'incredibile torsione che si fa del racconto del nostro passato. Perché se la storia, ma anche la geografia, non ci inganna, al 17 di marzo del 1861 all'Unità d'Italia manca Roma Capitale con i territori dello Stato Pontificio e una parte del Lombardo-Veneto. Ora, che è la Venezia Giulia. Naturalmente. Ora, voi immaginate l'istituzione di una giornata dell'Unità Nazionale in Francia senza Parigi. Tanto per dire. Naturalmente sarebbe stato più logico, a rigore storico, istituire quella giornata il 20 settembre, ripristinando però il giorno della breccia di Porta Pia, quindi la fine del potere temporale della Chiesa, ripristinando peraltro una, diciamo così, una festa civile che il fascismo aveva abolito dopo la firma dei patti lateranensi. Ma questo avrebbe creato un conflitto memoriale con lo Stato nello Stato, che vive sul nostro territorio nazionale, col Vaticano. E dunque l'Italia è l'unico paese del mondo, nel pianeta, che celebra la sua giornata dell'unità nazionale in una data che non registra la sua unità nazionale, politica, territoriale. Il 9, ma lasciano per ora in pace il Santo Aprile, dove celebriamo il 25, e il 9 maggio, arrivo, diciamo così, all'ultima parte della domanda di Stefano, con voto bipartisan viene istituita la giornata della memoria e del ricordo delle vittime del terrorismo nel nostro paese. Ora, il 9 maggio, come sapete, ricorre l'anniversario, nel 1978, del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di rapimento e lasciato dentro la Renault Rossa in via Caetani a Roma, a metà strada tra la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana e la sede della Direzione Nazionale di via delle Botteghe Oscure del Partito Comunista. Se lo sviluppo storico della democrazia nel nostro paese fosse stato lineare fino a quel momento, non ci sarebbe stato nulla da eccepire nell'individuazione di quella data come data di ricordo in memoria delle vittime del terrorismo. Ma noi sappiamo che, pur volendo edulcorando il racconto nazionale, pur volendo accantonare la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947, il fenomeno del terrorismo che caratterizza almeno tre lustri della nostra storia repubblicana, dal 1969 alla metà degli anni 80, il fenomeno del terrorismo emerge, nasce nel nostro paese con la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969. Però naturalmente è più semplice, per una retorica celebrativa pubblica, compatibile con un racconto memoriale, di nuovo, che rovescia il senso della storia, raccontare soprattutto alle giovani generazioni che il fenomeno del terrorismo è rappresentabile con un agente esterno allo Stato, le Brigate Rosse, che attaccano il suo cuore, piuttosto che spiegare che il fenomeno del terrorismo proprio dal cuore dello Stato è nato in questo paese, con le stragi. Ora, questo tipo di modalità di racconto narrativo della storia ci racconta tanto di ciò che siamo. ci racconta tanto del nostro orizzonte di senso, cioè di come abbiamo costruito non tanto nel nostro immaginario collettivo il punto di partenza della nostra vicenda nazionale e il punto di arrivo nel tempo contemporaneo, ma ci spiega la modalità con cui siamo diventati ciò che siamo. Qual è stato il percorso, il processo? E allora la rimozione del precipitato storico, dell'ascito, dell'eredità del fascismo diventa una leva di forza di questo racconto controfattuale della storia, che se da un lato appunto elude il rapporto di relazione con le nostre, con i nostri passaggi più drammatici, con i crimini di guerra del fascismo compiuti in Jugoslavia, in Grecia, in Albania, in Eritrea, in Etiopia, in Libia, in Unione Sovietica, in Francia, che lascia appunto fuori dalla memoria collettiva l'idea che l'ONU, le Nazioni Unite, alla fine del secondo conflitto mondiale stilano una lunga lista di oltre 1000 criminali di guerra italiani da processare in una Norimberga italiana, sul modello di quella tedesca, e che neanche uno mai di questi criminali di guerra sarà processato, ed anzi saranno reimmessi nel circuito dello spazio democratico italiano. I due questori di Lubiana, della Lubiana occupata dall'esercito fascista e dal regime di Mussolini, si chiamavano Ettore Messana e Ciro Verdiani. Alla fine del secondo conflitto mondiale, in qualità di ex questori della città occupata, di una città dove su 360.000 abitanti mancano al censimento post bellico 36.000 persone, cioè il 10% della popolazione, significa che in ogni famiglia di uno sloveno c'è un lutto per mano italiana, questo dobbiamo ricordarci. Ettore Messana e Ciro Verdiani vengono iscritti nelle liste dei criminali di guerra da processare, ma alla fine del conflitto ritornano a Roma, vengono riassorbiti all'interno degli apparati di forza del Ministero dell'Interno e nello stesso identico ordine in cui avevano governato la questura a Lubiana, ordinando deportazioni, fucilazioni di massa, stupri, torture, governano l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza in Sicilia, in un momento storico in cui l'isola è attraversata dai moti contadini che reclamano l'abolizione del latifondo, la riforma agraria, l'assegnazione delle terre a chi le lavora. Ed è in quel contesto che, spediti in Sicilia nello stesso ordine in cui avevano guidato la questura di Lubiana, Ettore Messana e Ciro Verdiani attraversano i fatidici anni dal 1946 al 1948 in Sicilia, quando la Corte d'Appello di Viterbo nel 1952 emette la sentenza per la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947, i giudici condannano gli esecutori materiali, il bandito Salvatore Giuliano e gli uomini della sua banda, ma non vogliono esimersi da lasciare scritto nero su bianco nella sentenza che a procurare le armi, i documenti falsi, il denaro, le cure mediche e l'assistenza al bandito Salvatore Giuliano e agli uomini della sua banda che si sono resi responsabili di quella strage sono stati i due responsabili dell'ordine pubblico nell'isola, Ettore Messana e Ciro Verdiani. Non fare i conti con quella storia significa escludere dal nostro orizzonte di conoscenza le radici fondative che spiegano l'anomalia italiana nel percorso di transizione dal fascismo alla democrazia, che spiegano perché nel 1965 64 prefetti su 64 erano di carriera fascista, 125 tra questori e vicequestori su 127 erano di carriera fascista, erano di carriera fascista tutta l'alta magistratura, col presidente della Corte Costituzionale Gaetano Azzariti, che era stato l'ultimo presidente del Tribunale della Razza fascista, e con la notte del 12 dicembre del 1969 alla questura di Milano, dopo la strage di Piazza Fontana, come sia possibile che quella notte un ex staffetta partigiana che si chiamava Giuseppe Pinelli venisse interrogato dall'ex direttore del carcere del confino di Ventotene, Marcello Guida, e che la notte del 15 dicembre quel detenuto, detenuto illegalmente perché il fermo di polizia era scaduto già da 24 ore, muoia volando dal quarto piano di quella stessa questura, quando era in custodia presso uomini dello Stato. Allora, questa storia, questa modalità del racconto ci spiega, e chiudo, una cosa fondamentale: che da un lato la retorica e il discorso, la retorica celebrativa di queste vicende italiane organicamente tende a destrutturare il nostro rapporto col passato. È un calendario, come scrivevo in maniera semplice, diciamo, nell'articolo di Jacobin, è un calendario civile che sembra fatto più per dimenticare che non per ricordare chi siamo e da dove veniamo. E quindi, proprio per questo, la trasmissione del sapere anche fuori dai canali, dai principali canali, come si dice oggi, mainstream, rappresenta davvero uno spazio essenziale di resistenza culturale, che non solo rappresenta, come dire, una difesa dalla revisione del passato. L'uso pubblico e strumentale della storia, esercitato dai vertici delle retoriche pubbliche, non serve a riscrivere ciò che è passato, serve a governare il presente. È questa la finalità dell'uso pubblico della storia, non solo la rivisitazione e la riscrittura del passato, ma l'utilizzo di questo processo per governare il presente, per delegittimare la radice costituzionale della resistenza che ha fondato la nostra Repubblica e il nostro spazio democratico, e dunque aprire la strada ad una rivisitazione di fondo degli assetti costituzionali che sono emersi dagli esiti della guerra di liberazione che si è chiusa il 25 aprile del 1945. E se oggi parliamo di riforma cosiddetta costituzionale, se oggi parliamo di una classe dirigente che esplicitamente rifiuta non solo di dichiararsi antifascista, ma rifiuta l'antifascismo come fondamento della Repubblica Costituzionale, ecco che capiamo qual è il senso profondo della rivisitazione del passato come forma di governo del presente. Grazie. C'è spazio anche per qualche domanda dal pubblico, se volete, altrimenti possiamo continuare in maniera informale, c'è l'aperitivo. Come, se c'è qualche domanda, i relatori sono qui, altrimenti poi sono a bancone. Prego. Microfono. Se quello che succede in Italia, successo in Italia, è successo in modo diverso anche in Slovenia e Croazia, cioè anche lì c'è stato un revisionismo storico del periodo 41-45, se siete a conoscenza, cosa potete dirci? Come facciamo? Ne raccogliamo qualcuna? Ne raccogliamo qualcuna? Se ci sì, raccogliamone qualcuna, questa è la prima. Eventualmente, non siate timidi. Beh, vuoi il microfono? Ma no, dai, è qua. Molto semplice. È venuto sempre la registrazione. Ok. Vieni. E non arrivava, scoppia la cassa. Sì. Semplicemente, diciamo, mi riferisco ai dati, diciamo, di quello che si racconta appunto sui morti e le foibe. Ecco, insomma, credo che molto spesso appunto una narrazione differente da quella che abbiamo sentito oggi si basa su dati diversi, quindi immagino che, come dire, non sia neanche semplice avere in mano dei dati precisi, insomma, ecco, però così anche essendo, come dire, anche affascinato del racconto di oggi, no? Però il controracconto magari si basa su magari dati molto più, insomma, molto più grandi, e quindi non so, mi chiedo io come fare per controbattere su questo. Mi sono espresso un po' male, però insomma, il concetto si è capito. Posso rispondere intanto a queste due cose? Ok. Ma di solito, parlando di foibe, si parla, come si è già ricordato, di due episodi, le foibe istriane del 43, poi quelle che vengono chiamate foibe istriane del 45, cioè dei primi giorni di maggio del 45, subito dopo la liberazione di Trieste. Per quanto riguarda le foibe istriane, ho accennato prima, ho accennato anche Piero, sul fatto che i numeri sono molto diversi da quelli che vengono appunto i recuperi dalle foibe fatte sotto la direzione nazista furono di 204 o 220 a seconda delle fonti, e un documento fascista della fine della guerra, dell'aprile del 45, un documento del federale dell'Istria Luigi Bilucaglia, quindi il capo dei fascisti collaborazionisti dei tedeschi in Istria, parlava di 500 uccisi dai partigiani, ma lui parlava di 500 fascisti, naturalmente, uccisi dai partigiani, ma non erano tutti infoibati, si riferiva a tutti quelli che erano stati uccisi in Istria nella lotta contro i partigiani dall'8 di settembre del 43 alla fine di aprile del 45, quindi anche morti in combattimento, eccetera. E questo è l'ordine di grandezza per quanto riguarda le foibe istriane, quindi molto diverso da quello che viene narrato. Per quanto riguarda le foibe triestine, il discorso è quello che faceva Piero, cioè che la gran parte delle persone che vengono definite infoibati non sono stati infoibati, ma sono morti nei campi di concentramento per prigionieri di guerra, ed erano soprattutto per la gran parte o persone arrestate in divisa della milizia difesa territoriale, della decima MAS o dei battaglioni Mussolini, eccetera, oppure persone che erano considerati delatori o collaborazionisti dei nazisti a vario titolo. Sono morti nei campi di concentramento per prigionieri di guerra per le gravissime condizioni di vita che si vivevano in Jugoslavia in quelle settimane, in quei mesi, anche da parte della popolazione. La Jugoslavia è uno dei paesi che in Europa hanno subito per abitante le maggiori distruzioni da parte della guerra. Il termine di infoibati per tutte queste persone è stato inventato praticamente, o forse non inventato, ma avallato in maniera molto autorevole, ma naturalmente sbagliando, da Raul Pupo, colui che parlerà fra qualche giorno qui a Reggio Emilia. Ed è una responsabilità grossa da parte di uno che viene considerato il maggiore storico sull'argomento, perché l'immagine dell'infoibato è molto diversa da quella della persona che muore in campo di prigionia per dissenteria o per malattie, eccetera. L'immagine dell'infoibato che è stata diffusa è quella di persone che vengono gettate ancora vive, legate ai polsi con il filo spinato, non si capisce perché, con torture precedenti, con tutte le nefandezze che fanno parte della demonizzazione del nemico, sostanzialmente, che sono state usate in tutte le guerre, ma per quanto riguarda i partigiani jugoslavi vengono credute, come dicevo, senza andare ad indagare cosa fosse successo veramente. Per quanto riguarda le foibe, appunto, triestine, il simbolo è la foiba di Basovizza. soltanto che nella foiba di Basovizza, e questo credo che sia la cosa che dovrebbe far capire la gravità della montatura che è stata messa in piedi, nella foiba di Basovizza non ci sono stati foibamenti. Ma questo non lo diciamo noi che siamo negazionisti, come veniamo definiti, ma lo dicono gli angloamericani, lo dicono addirittura anche documenti italiani. Gli angloamericani nell'estate del 45 provvedettero, sotto sollecitazione di ambienti italiani che volevano mettere un cuneo di divisione con gli jugoslavi, procedettero ai recuperi, all'indagine di cosa c'era in questo che era un pozzo di miniera, non una foiba geologicamente parlando. E il risultato, dunque, 8 mesi dopo, cominciarono nel luglio del 45, quindi non 8 ma 7 mesi dopo, nel febbraio del 46, concludevano queste ricerche dicendo alle autorità italiane di Trieste e anglo-americane che governavano in quel momento Trieste, da parte dei comandi più elevati anglo-americani: vi autorizziamo a interrompere le ricerche nel pozzo della miniera di Basovizza, ma perché, dato che non hanno dato risultati, ma poi, perché gli jugoslavi non possano dire che questo è stato fatto come propaganda contro di loro, vi autorizziamo a dire che le ricerche sono interrotte per mancanza di mezzi tecnici adeguati. Con questa scusa della mancanza di mezzi tecnici adeguati sono andate avanti fino ad oggi, quando ci sono stati cittadini di Trieste che già negli anni Ottanta, essendo stufi di sentir parlare sempre di foibe, dato che si dice che non se n'è mai parlato, avevano chiesto alla magistratura con un esposto, in notizia dell'esistenza di 500 metri cubi di infoibati, così si dice nel monumento di Basovizza, nel pozzo della miniera, chiediamo, in base alle leggi italiane, che la magistratura provveda al recupero di questi corpi e all'indagine su cosa è successo. La magistratura triestina rispose: non esiste notizia di reato, e così hanno messo una pietra sopra, letteralmente una pietra di 15 metri di lato, e la cosa è continuata così. Ma come dicevo, ci sono anche documenti addirittura del comune di Trieste, che nel 48 diede l'autorizzazione perché il pozzo della miniera di Basovizza diventasse uno scarico di materiale bellico, e furono gettati dentro, fu gettato dentro il contenuto di 33 camion pieni di pallottole, razzi e altre cose di tipo bellico. Il sindaco di Trieste quella volta era Gianni Bartoli, che è quello che ha stilato il primo libro con elenchi di infoibati, ed è uno di quelli che hanno avallato l'idea che nella foiba di Basovizza ci fossero fra i 2.000 e i 3.000 infoibati, o in alternativa 500 metri cubi, perché così ci si esprime in questa vicenda, con scarso rispetto anche di quelli che eventualmente fossero morti. E quindi questo Gianni Bartoli, che è stato uno dei campioni, diciamo, della propaganda foibologica, nello stesso tempo in cui avallava l'idea degli infoibati nella foiba di Basovizza, firmava anche l'autorizzazione a buttare dentro 33 camion pieni di quindi insomma. Questo credo sia l'esempio più efficace per capire in che bolla di falsità stiamo vivendo. Volevo aggiungere una cosa. Allora, il pozzo della miniera è un pozzo che ha tipo 2 metri di diametro ed è lungo qualche centinaio di metri. Profondo, scusate, e sopra ci hanno messo questa pietra, questo è l'astra di 15 metri, per cui dà l'idea di un abisso incredibile. Se facciamo il calcolo, 500 metri cubi straripano, per cui non so, probabilmente la cosa parte dal fatto che quando sono stati fatti i recuperi hanno trovato 50 kg di resti umani, almeno così dicono i bollettini dell'epoca. Sì, che erano 50 kg, poi soldati tedeschi. Considerate che dei resti umani, cioè un corpo umano è fatto del 70% di acqua, per cui insomma non è che sia sta gran roba, insomma. Corrispondono a qualche decina al massimo di persone. No, invece volevo tornare a come nascono questi numeri stratosferici. A parte, va bene, lasciamo perdere Gaspari che ha parlato di un milione di foibati, il che significa che tutti gli abitanti di Venezia Giulia sono morti, o anche il grandissimo storico Paolo Mieli che ha parlato di centinaia di migliaia di infoibati. È curioso vedere perché cos'era un 4 anni fa, 5 anni fa ha fatto il Johnny la storia parlando di centinaia di migliaia di foibati. L'anno dopo, siccome sono stati fatti degli articoli, reclami eccetera eccetera, hanno rimandato lo stesso filmato con veramente tagliando solo quei due secondi in cui è riuscito a dire sta castroneria, che però non si nota. Hanno fatto una cosmesi del filmato che veramente a confronto quando levavano le foto di Trotsky che era seduto vicino a Lenin, erano di dilettanti assoluti. No, invece volevo parlare appunto sì, da dove saltano fuori questi numeri stratosferici tipo 30.000, 15.000 eccetera. In realtà sono numeri che partono dalle richieste di informazioni su persone scomparse dopo la Seconda Guerra Mondiale. E sono elenchi che venivano stilati tendenzialmente dalla Croce Rossa, da qualche organizzazione umanitaria, forse le Nazioni Unite, non mi ricordo, scusate. E infatti il primissimo elenco ne è 30.000, quello successivo ne è 15.000, ma sono le persone che non hanno più dato notizia di sé. Il che non significa, primo, che siano tutti morti, perché moltissimi di questi erano dei militari. Per cui con militoni magari chiedevano che fine ha fatto Pinco Pallino eccetera. Poi questi qua chiaramente di stanza magari a Trieste, a Fiume, a Gorizia, in Istria eccetera eccetera, con l'8 settembre se ne vanno, scappano e tornano a casa, per cui moltissime di queste persone che sono date per scomparse in realtà erano ancora vive, semplicemente erano ritornate a casa, ma negli elenchi della Croce Rossa in cui si domandava che fine ha fatto questo nella Venezia Giulia, non esistendo internet niente, figurano come scomparsi. Seconda cosa, figurano come persone sparite, persone appunto che non hanno più dato nessuna notizia, ma sono persone che sono sparite nell'arco di tutti i 5 anni di guerra, per cui in questo elenco troviamo poi persone che magari sono morte durante battaglie navali in mezzo al Mediterraneo, oppure sono stati uccisi dai tedeschi, oppure semplicemente non si sa che fine abbiano fatto. Nella vulgata, nelle fesserie che vengono sparate dalla destra, questi sono tutti ammazzati per causa jugoslava. In realtà, semplicemente, premesso che molti di questi non sono proprio morti, cioè adesso sono morti perché sono passati 70 anni, 80 anni, però molti di questi all'epoca in cui è stata fatta la domanda di sparizione erano ancora vivi, altri sono morti per tutti altri motivi, altri ancora sono morti al di fuori addirittura dei combattimenti nella Venezia Giulia eccetera eccetera. E poi vengo alla sua domanda, se ci sono delle situazioni del genere di revisionismo storico anche in Slovenia e in Croazia. Assolutamente sì. In Croazia con la guerra degli anni 90 c'è stato appunto questo rivalutazione assoluta del regime di Pavelić eccetera, sono stati addirittura distrutti moltissimi monumenti, se non sbaglio addirittura il campo di Jasenovac sì, ha subito degli attentati. Si è voluto veramente cancellare la memoria di quelle che erano le violenze ustascia, gli ustascia erano i collaborazionisti filofascisti e poi filonazisti, che in realtà poi diciamo se possibile in Croazia la situazione è stata ancora peggiore, perché poi tra l'altro in Croazia assistiamo con la nascita del nuovo paese al ritorno anche di un sacco di discendenti praticamente di criminali nazisti, che sono dei criminali filofascisti, ustascia, che sono scappati in Argentina e in Australia, anzi proprio da questi canali, dall'Australia, dagli Stati Uniti eccetera, arrivano soldi per comprare le armi per l'indipendenza croata degli anni 90. Stessa cosa, diciamo la Slovenia non ha avuto uno Stato nato collaborazionista. La Slovenia ha un immaginario collettivo, almeno per la parte occidentale, che è più antifascista, però ci sono state delle personalità, lo stesso ex primo ministro Janez Janša, che ha rivalutato alla grande proprio la Bella Garda, i collaborazionisti, i domobranzi sloveni che collaboravano con i fascisti e i nazisti, e addirittura appunto si è andato a scavare nelle cosiddette foibe slovene, che foibe non sono, sono semplicemente cave in cui in alcuni casi sono stati rinchiusi collaborazionisti e poi sono state buttate le bombe, per cui sicuramente non si tratta di pulizia etnica, si tratta semplicemente di resa dei conti contro i collaborazionisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati appunto questi ritrovamenti, però sicuramente anche questi sono stati molto pompati numericamente, poi si è anche molto discusso su quante di queste cave non sono state effettivamente trovate, eccetera, eccetera. In realtà anche in Slovenia si è assistito, adesso forse un po' meno, dipende un po' anche da chi c'è al governo, a una rivalutazione del passato fascista. Chiudiamo con Gianluca. C'è un'altra domanda. Facciamo l'ultima domanda perché si sta sfilacciando la sala, poi dopo c'è un peccato. No, ma io sì. No, io volevo solo chiedere, perché quello che sta, insomma, grazie perché avete fatto un quadro molto chiaro, molto chiaro. E, però rispetto proprio all'uso politico, all'uso pubblico della storia, il discorso mi sembrava a me, insomma, iniziare da un processo di democratizzazione del fascismo negli anni 90, e da lì mi sembra che sia nato questa idea di una storia bipartisan, di una, no, di un riequilibrio delle memorie, di una memoria condivisa nazionale. Ecco, qual è l'errore di un pensiero di questo genere? Cioè, nel senso, il fascismo e la democrazia sono compatibili? Cerchiamo proprio di essere sintetici. Dunque, evidentemente no, sono due elementi storicamente contrapposti e non compatibili. E da dove nasce questa contronarrazione, diciamo così? Nasce con la fine della Guerra Fredda. Fino a quel momento, nel panorama che oggi chiameremo globale, un tempo si sarebbe detto internazionale, il racconto, la rappresentazione semantica della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza era quella immaginata con la figura del partigiano combattente col fucile. È una rappresentazione quella che serve a dare concreta visione ai due campi che si sono combattuti nella Seconda Guerra Mondiale, che abbiamo detto non è, come spiega Eric Hobsbawm, semplicemente una guerra tra stati-nazione, è una guerra tra paradigmi di valore, tra il paradigma illuminista, spiega Hobsbawm, rappresentato dagli alleati, e dall'altra parte il ritorno alla barbarie medievale. Questo conflitto ideologico, che è alla base della Seconda Guerra Mondiale, viene espresso nel racconto popolare internazionale, perché se c'è un tratto identitario che tiene insieme storicamente le memorie di un cittadino di Oslo con uno di Budapest, di uno di Varsavia con uno di Belgrado, di uno di Belgrado con uno di Parigi, è la resistenza antifascista e antinazista. E non è un caso che l'idea stessa di costruzione sovranazionale europea nasca in Italia al confino di Ventotene per mano di tre antifascisti. Ora, questo racconto, l'immagine cioè del partigiano combattente che vince, quindi che sconfigge, cioè un paradigma di valore che sconfigge un altro paradigma di valore, viene meno con la fine della Guerra Fredda. Lì, per necessità geopolitiche di dimensioni sovranazionali, evidentemente, viene ricostruito un paradigma diverso. Perché il cuore della ricostruzione dell'Unione Europea, dell'Europa unita, dopo la fine della Guerra Fredda, è naturalmente la Germania, sul piano economico, culturale, politico, internazionale. Ma la Germania non ha avuto la resistenza. E deve quindi costruire un racconto europeo che tenga insieme le memorie di tutte le popolazioni che hanno attraversato quegli eventi. E dunque nasce un nuovo paradigma vittimario, che pone cioè al centro non più il partigiano combattente che ha vinto in nome di un paradigma di valore, ma viene sostituito dall'immagine, dal racconto della vittima. Nasce quella che gli storici chiamano l'era del testimone, nella quale i testimoni che hanno assistito o hanno patito le violenze diventano i nuovi strumenti del racconto storico. In primis perché è diretto ed immediato un meccanismo di trasmissione del racconto di questo tipo. Chi è che non empatizza con una vittima, con un parente di una vittima che racconta di una violenza patita da lui o dalla sua famiglia o dal suo popolo? Nessuno. Chi è che nell'immaginario collettivo non empatizza, non prova prossimità con un reduce dai campi di sterminio o un figlio di un infoibato? Vederlo raccontare, vederlo piangere, produce in noi un avvicinamento umano, empatico. Ecco, il cambio di questo paradigma, che è al centro della ricostruzione storica della Germania come elemento di unità del continente europeo, come senso generale da restituire al continente, organizzato sull'assunzione di responsabilità, cioè sul senso di colpa tedesco per le politiche di sterminio del Terzo Reich, crea le condizioni per letteralmente sbancare il racconto storico che aveva tenuto in piedi la trasmissione del sapere precedente. Perché? Perché se le vittime diventano tutte uguali, se la Shoah e le foibe sono uguali, e signori, anche i carnefici diventano uguali, anche chi li ha uccisi diventa uguale l'uno all'altro, e allora nazismo e comunismo diventano davvero la stessa cosa. Di più, anche fascismo e antifascismo diventano la stessa cosa. E allora, laddove il revisionismo storico, che cercava l'equiparazione sul piano del racconto combattente tra partigiani e saloini, ha fallito, ecco, laddove questo meccanismo ha fallito, riesce il paradigma vittimario, che mette al centro le vittime e quindi propone un racconto egualitario dei carnefici. Vediamo. Allora, solo un minuto, io ringrazio. Ringrazio i nostri relatori per essere stati qua, ringrazio voi per essere stati in queste due ore con noi. Vi ricordo solo le ultime due date, che sono le ultime due iniziative per quest'anno verso sul giorno dei ricordi, che sono sabato 10 febbraio alla mattina in piazza alle 10.30 in piazza Martiri del 7 luglio, come ogni anno il presidio, per far vedere la nostra presenza di parte rispetto alla questione del giorno del ricordo, magari continuare anche sia formalmente che informalmente a parlare di queste cose. A breve uscirà anche il documento di indizione della piazza, e poi la conferenza in consiglio comunale, ancora non è dato sapere, nella sala del consiglio comunale non è dato sapere l'orario, ancora al pubblico, in cui invito tutti a venire. Invito anche a leggere un breve testo che abbiamo scritto, che uscirà probabilmente lunedì, che risponde un po' a quello che Raul Pupo ha dichiarato sul Resto del Carlino. Se non avete letto quello che ha dichiarato sul Resto del Carlino, lo troverete all'interno dell'articolo. L'articolo lo pubblicheremo su Linea Reggiana, che è il portale di elaborazione politica degli spazi sociali, molto probabilmente lunedì. Quindi vi invito a leggere, vi invito anche a presenziare sia la mattina che poi alla conferenza, perché ascoltare Pupo comunque darà anche a chi ha ascoltato questa conferenza la differenza proprio di lettura e di narrazione dei fatti, anche da un punto di vista storico, insomma, non solo storico ma anche politico, perché Pupo chiaramente è un democristiano di ferro ed è molto diverso da noi. Quindi vi ringrazio. L'ultima cosa di Stefano e poi possiamo concludere su sé. Diciamo che appunto le iniziative si chiamavano I tempi non sono maturi, la maturità la fa la consapevolezza, e dal basso le istituzioni possono essere istruite, come diceva un compagno, Micciariello, dei beni comuni. E penso che è fondamentale in questo momento di non incappare in errori dove determinate narrazioni, come quella di Pupo, che sono più sottili della narrazione fascista, si insinuano in maniera molto insidiosa e scivolosa, e sono le pezze d'appoggio del revisionismo. È lì che la storia revisionista diventa storia ufficiale. Questo è un danno per tutti, e chi fa da sponda è complice. Grazie.